America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Siamo alla quarta puntata di questa maratona nella musica classica, nella classifica dei migliori compositori della storia, redatta dal New York Times. Abbiamo voluto fare l'esame al New York Times confrontando questa classifica con l'opinione di Armando Torno, grande critico musicale italiano. Armando, e io tra l'altro, Armando, sei già in linea, credo. Sono in linea. Sì, ecco, in linea. Armando, no, dicevo, noi ci conosciamo da anni, vorrei che anche una volta tu potessi magari dare un'opinione su quella mia interpretazione che ti feci una volta, se tu ricordi, nella redazione del Domenicale del Sole 24 Ore della La Donna Immobile. Ecco, io posso dire una cosa, Mario, sei la persona più simpatica che io ho incontrato, ma anche una delle più stonate, quindi no. Ti prego di risparmiare agli ascoltatori uno strazio, insomma. Ecco. Armando, questa è una provocazione, poi stai attento perché poi la canto in diretta senza musica e vediamo chi vince, perché gli ascolti aumenteranno. Spero anche per questa trasmissione. Dunque, andiamo avanti in questa classifica dei compositori. Al settimo posto il New York Times con Tommasini mette Johannes Brahms. Dice alcuni musicisti che rispetto, dice Tommasini, non hanno problemi a trovare difetti in Brahms. È vero che qualche volta si è perso nel tentativo di estendere l'eredità classica in nuovi territori della musica, ma nei suoi lavori migliori, specialmente gli intermezzi e i capricci, Brahms ha la stessa grandezza vibrante di Beethoven. Di Brahms vi faccio ascoltare, scelto da Tommasini, Danze ungheresi. Ecco Armando, siamo di nuovo in linea, dunque al settimo posto Brahms. Dico pazienza, Tommasini comunque non ha scelto male, per un settimo posto direi che Brahms se lo merita tutto, anche se ovviamente si poteva trovare magari il posto per un italiano. In ogni caso Brahms è un incantatore di forme, è l'uomo che fa sparire le note in queste forme che abilmente confeziona davanti agli occhi e nelle orecchie dell'ascoltatore. Breaking news. Le ultime novità da Francoforte, dove la BCE proprio qualche minuto fa ha alzato come previsto i tassi di interesse in Eurolandia. Il rialzo è stato di 0,25 punti, dunque adesso sono all'1,25%. Alle 14 ne parleremo in GR24. Brahms è un'epoca fatta di danze ungheresi, fatta, che so io, di concerti per violini che facevano così svenire le dame, da variazioni che sono tutte belle una dopo l'altra. È l'uomo che ad esempio nel doppio concerto per violino, violoncello e orchestra in la minore, quello del 1887, ha fatto svenire per l'emozione alcuni presenti. È l'uomo che in qualche modo incarna la Felix Austria. È l'uomo che diciamolo pure chiaramente, può essere considerato il fratello minore di Beethoven, però di Brahms abbiamo bisogno, alcune sue armonie, alcune sue musiche giustamente hanno ispirato le colonne sonore dei film, il grande suggeritore di Hollywood delle colonne sonore, degli effetti, degli speciali è Brahms, perché con le forme ci va matto, con le forme sa far tutto. E poi Brahms è, diciamo così, un compagno di banco che in qualche modo suggerisce sempre qualcosa, incanta, è piacevole e soprattutto non disturba mai. Non chiedete l'inquietudine a Brahms, non chiedete molte volte di risolvervi un problema, ma Brahms vi aiuta comunque a vivere, magari attraverso un sorriso o una dolcezza o una danza. Gioia, o che storia viva in me, e in me il piacere. arriviamo all'ottavo posto e forse qui c'è un momento di sollievo, caro Armando, perché finalmente appare un compositore italiano, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, il grande, grandissimo, grandissimo Verdi. Sceglie Tommasini La Traviata e dice: nell'ascoltare una nuova produzione della Traviata di Verdi, fortemente rivisitata al Metropolitan Opera House, ho avuto la prova della straordinaria passione che ancora oggi la duratura ricchezza dei lavori verdiani è in grado di provocare. Finalmente un italiano, non credo che su questo tu possa avere nulla da ridire. No, l'avrei messo forse in qualche posto più alto, se vogliamo proprio premiarlo come autore di melodrammi. Verdi indubbiamente è un compositore che ha in sé tutti i sapori, tutte le forze, tutto il fascino dell'Italia, ha in sé quel sapore della terra italiana, del cielo italiano, dell'armonia, è quel compositore che sa incantare, sa trascinare, può fare tutto Verdi con i suoi cori oppure con una sua romanza o semplicemente anche con una sua aria. Tuttavia Verdi è l'immagine perfetta dell'Italia. Se l'Italia ha avuto un ambasciatore nel mondo, il più efficace, il più bravo, il più suadente, è stato Verdi. E ne dimentichiamoci che in America la musica di Verdi la portò Pietro Maroncelli, proprio il compagno di pellico allo Spielberg, che dopo aver tagliato la gamba era un musicista, uscì ed emigrò in America perché non accettava appunto il dominio straniero sull'Italia, e lì cominciò a diffondere le opere di Verdi, a farlo conoscere. Oggi Verdi, diciamo così, è rappresentato in ogni teatro del mondo, ma in ogni teatro del mondo, quando si esegue Verdi, quando c'è un coro di Verdi, quando c'è una romanza, quando c'è un Duca di Mantova, quando c'è una bella figlia dell'amor, c'è indubbiamente l'Italia. E da questo punto di vista possiamo dire che almeno ci siamo salvati, la patria della musica con Verdi è ben rappresentata. Certo, poi Verdi non è un musicista nel senso beethoveniano, brahmsiano, mozartiano del termine. Verdi è la forza, è la natura, è il coraggio, è la sincerità, è il sapore, è la carne, è il sangue, non sono le idee, attenzione. Verdi è un musicista che ti dà tutti i sapori, ma ti spiega solo e semplicemente una serie di emozioni. Non è il musicista delle idee, non è il musicista enigmatico, non parla direttamente con Dio come Bach. Ciò non toglie che, meglio forse di ogni altro, rappresenta questo singolare paese chiamato Italia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi propongo dei Beastie Boys due citazioni classiche in una loro composizione, Intergalactic. La prima citazione è di Mussorgsky, Notte sul Monte Calvo, e la seconda, il magnifico preludio in do diesis minore di Rachmaninov. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.